This podcast is part of the MyPodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast, MyPodcast.com. Gabriele Vasquez, ci sarai? Dove? Non lo so. E allora sì, ci sarò. Ci vai o ci sei? Ah, ci sono sempre. Allora, come vanno le cose? Tutto bene, sono nella ridente Bologna per il Future Film Festival. Nella dotta Bologna, dotta. Esatto, nella dotta Bologna. Tant'è che io albergo nell'hotel University. Perché so che è qui che bisogna venire. Bravo, te l'ho già detto l'altra volta, quartiere universitario. Ma io seguo sempre i tuoi consigli. Fai bene, come va? Quanti giorni è che sei lì? Sono qui da martedì e mi sarò fino a domenica. E hai già agganciato? Ma come un critico cinematografico come te? Sono venuto qua. Oh. E questo è il motivo principale per cui sono venuto qua. Non avevo capito, è quello lì, infatti. E quindi? Niente. No, e quindi sì, ho fatto una serie di agganci, ma insomma. Ma parliamo di cinema. Ho capito, parliamo di cinema. Aspetta, mi sto strangolando. Allora, Operazione Valchiria, vai. Ecco, bravo. Ma com'è che ce l'hanno? Che non ho visto. Ecco. Sono l'unico. Lo sapevo io. Com'è mai che ce l'hanno tutti con questo film? Ah, ce l'hanno tutti perché a quanto ho sentito l'interpretazione di Tom Cruise è veramente ridicola, nel senso che è un film di cui si è parlato tantissimo, che affronta anche un tema molto sentito, cioè racconta la storia vera di questo generale dell'SS che durante l'ultimo anno della seconda guerra mondiale tentò di rovesciare Hitler, ovviamente non riuscendoci, perché insomma lo sappiamo, è già successo. Quindi una storia, un tema importante, una storia seria fatta da Tom Cruise, che ha avuto mille lungaggini produttive, ci sono stati anche gli scontri con gli eredi di questa figura realmente esistita, e pare che lui sia veramente ridicolo da questa cosa, però appunto io non l'ho visto, non posso no dire. No, ma io intendevo loro dal punto di vista politico, ce l'hanno tutti con lui, gli hanno dato il filo nazista, l'ira di Dio. Questo non ti saprei dire, io le mie talpe che hanno già visto il film mi dicono che comunque non si ritira del filo nazismo. Anzi, vabbè, era solo tutta pubblicità, ho capito. Esatto, ho capito, va bene. Invece, ben più interessante, io qui ho avuto modo di vedere in anteprima totale, universale, siderale il curioso caso di Benjamin Button, che è il film che ha ricevuto 13 nomination all'Oscar, il film record di quest'anno per quanto riguarda le nomination. Ma penso sia al massimo 13 quest'anno. No, in generale, quante se ne possono? Mi sembra 18 il record di Ben-Hur. Ah, 18, chiedo scusa. Mi sembra che sia, sono sicuro. Il record di Ben-Hur è eguagliato da Titanic. Chiedo scusa. Insomma, il film racconta la storia inventata di questo Benjamin Button, che per cause sconosciute, così per casualità, nasce con una malformazione incredibile. Praticamente lui nasce neonato come tutti, però è vecchio, cioè il suo corpo si sviluppa normalmente, cioè nasce piccolo e finisce grande, però la sua salute si sviluppa inversamente, nasce vecchio, rugoso, sordo, con la cataratta, tutto quanto, e morirà giovanissimo. È una storia particolarissima, stranissima, per la quale ci sono state delle tecniche innovative per invecchiare e poi ringiovanire Brad Pitt, infatti sicuramente vincerà l'Oscar per i migliori effetti speciali, e che diciamo veramente ricorda tanto Forrest Gump, perché poi questo Benjamin Button, questa figura così particolare, per certi versi molto innocente, perché poi ha chiaramente una vita stranissima, nel senso che arriva ad essere giovane nel pieno delle sue forze, anche al pieno della maturità mentale, perché comunque ci arriva ad avere 20 anni quando ha già vissuto per 60 anni. E dicevo, questo Benjamin Button attraversa tutto il Novecento, perché nasce al finire della prima guerra mondiale e chiaramente vivrà quasi tutti gli eventi, quindi in questo senso è molto, molto simile a Forrest Gump. C'è anche una ragazza, il suo unico amore che insegue in tutti questi anni, come era per Forrest Gump, la mamma molto presente, insomma veramente la struttura è quasi uguale, che è un po' poi la pecca del film, che tra un po' di umorismo e un po' di sentimentalismo è fatto a forma di Oscar, ma non convince tanto. Ecco. Senti, invece Quarantena l'hai visto? Quarantena l'ho visto. Com'è? Praticamente Quarantena è il remake di Rec, un film spagnolo dell'anno scorso. Praticamente gli americani importano film, ma non li doppiano, loro li mandano con sottotitoli, e siccome hanno un'industria propria molto molto forte, in pochi vanno a vedere i film stranieri, i film importati. Quindi loro, invece che doppiarli, li rifanno da capo. Fanno prima, li girano. Esatto, e li girano uguali. Cioè, questo qui è un pochino più lungo, quindi ha tipo 3-4 sequenze in più e un personaggio in più, ma per il resto è identico. Infatti è una cosa veramente impressionante, che è interessante da un punto di vista, cioè se proprio siete appassionati del cinema e di come si fanno le cose, perché pur essendo identico ci sono delle piccole variazioni che segnano tutta la differenza tra il modo in cui gli americani mettono paura e il modo in cui gli spagnoli mettono paura, che è una cosa che può avere il suo livello di interesse, ma insomma il grande pubblico, chi ha visto Rec già l'ha visto, punto. È abbastanza inutile riandarlo a vedere, anche perché il risultato è assolutamente un calco perfetto dell'originale. Ho capito. Senti, invece altre domande mi sono preparato anch'io, Revolutionary Road. Revolutionary Road è molto bello, molto bello. È il film con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Ma ne abbiamo parlato già la scorsa settimana, se non ricordo male, o no? Sì, perché a me è piaciuto molto e ho cominciato a anticiparlo. E loro, cioè la cosa viene molto sbandierata come ritorna insieme la coppia di Titanic. In realtà il film è completamente diverso, completamente. Si basa sull'omonimo libro di Richard Yates, che è un caposaldo della letteratura americana ed è bellissimo, cioè la storia è stupenda, veramente. Il film è diretto da Sam Mendes, che già aveva fatto American Beauty e Era mio padre, e devo dire che secondo me rende abbastanza onore al libro, cioè vedendolo quello che a me è sembrato è che come film, come opera cinematografica è buono, la storia è straordinaria, la storia è proprio straordinaria, sono dei personaggi bellissimi, è la storia di questa coppia americana alla fine degli anni 50, coppia molto media che come tutte cerca alla fine degli anni 50 quel benessere di massa che era arrivato in America dopo la seconda guerra mondiale, quindi la casetta schiera, una famiglia, la macchina, insomma quelle cose proprio dell'American way of life, però sì, dentro entrambi sentono una legittima aspirazione alla straordinarietà, cioè a rivendicare una vita una vita originale, poter perseguire, fare il lavoro che sognano, insomma perseguire i propri ideali, e tutto il film è questo contrasto tra la vita che hanno e le aspirazioni che hanno. A un certo punto sembrerà quasi che riescano a raggiungerle, ma non diciamo il finale, interverranno mille cose, non diciamo il finale, non raccontiamo il finale, insomma, c'è l'intreccio, ecco. Immagino. Allora, telegraficamente, Il Dubbio. Anche questo candidato a non si sa quanti premi Oscar. Esatto, perché ci sono le due colonne e con Philip Seymour Hoffman e Meryl Streep. E infatti è tratto da un'opera teatrale, quindi molto verboso, molti dialoghi, e si poggia molto su questi due grandi attori che insomma fanno la prestazione. Se adesso rivelo questo piccolo particolare della mia vita, io sono andato per un certo periodo lungo anche alla scuola privata dalle suore, per dirla in maniera spiccia. Si vede, e si questo sente. Film racconta di una scuola, di un'istituzione privata, una scuola privata di New York negli anni 60, e la ricostruzione, devo ammettere che è perfetta, è una scuola cattolica, e la ricostruzione perfetta di quell'atmosfera mista tra conservatorismo, fascismo e cattolicesimo, ed è proprio incentrato sul dubbio. Questo vuol dire che molti potranno rimanere anche irritati dal film, nel senso che c'è una storia, c'è questo prete che è Philip Seymour Hoffman, che è accusato dalla suora priora di sostanza di pedofilia, però non ci sono prove. Lei se n'è convinta perché le sembra di averlo intuito, ma in effetti non ci sono prove. Lui si difende dicendo non ci sono prove, inutile continuare a dirlo. Però il film è tutto su questo. E sul come lo scatenare un dubbio poi cambi in sé le cose, e alla fine sarà difficile capire qual è la verità, perché quello che conta di più è il concetto di dubbio. A me non è che mi abbia soddisfatto troppo questo film, perché mi sembra che accenna molti temi e non risolve nessuno, non ha il coraggio di affrontarne nessuno davvero, e si salva un po' in corner con questa storia del dubbio. Però è veramente sì, la cosa sicura è che insomma è un film di gran fattura, fatto veramente. Oh, parliamo invece del film dell'anno, questo piccolo grande amore, vai. Quello mi sembra che esce tra un paio di mesi. Quello c'ho anch'io una certa. Ancora non l'hai visto? No, no, esce tra un bel po'. Ti leggo la trama. Durante una manifestazione studentesca, Andrea, universitario, conosce Martina, liceale. I due si piacciono e sulle note della canzone di Baglioni, delle canzoni di Baglioni, si innamorano vivendo la loro vera prima storia importante. Soddisfatto? Beh, guarda, io però devo dire la verità. Forse sarà tanto, bello. Dicevi? No, forse sarà bello, dai, un ritorno agli anni 70. No, devo dire la verità. Nonostante poi queste storie mi facciano ridere anche me un po' per la semplicità. Ah, però ti piacciono, dai, sei un tenerone. Non posso negare, e lo dico seriamente, che sono tra i prodotti, e quando parlo di prodotto non parlo di arte, parlo di prodotto, sono tra i prodotti migliori che facciamo. Cioè sono film che costano poco, sono realizzati in maniera onesta, cioè non sono dei capolavori, ma non sono neanche fatti male, sono fatti in maniera abbastanza buona, incassano tantissimo e se ne fanno tanti, cioè è un format di cui se ne possono fare tanti, la gente va a vederli. Bene. E non fanno neanche schifo, insomma sono una cosa media, cioè, è un prodotto popolare tipico, per cui alla fine li guardo veramente con molta indulgenza. Underworld, la ribellione dei Lycans, non l'hai visto? L'ho visto qua. Com'è? Secondo me non è all'altezza degli altri Underworld. È un po' più confusionario, è un prequel alla saga di Underworld che se dovessi descrivere in due parole la saga di Underworld è vampiri contro lupi mannari. In sostanza questa cosa, questo film è un prequel a tutta questa storia, spiegando quando c'è stata la spaccatura, cioè quando le due razze sono entrate in conflitto. Ma insomma a me non mi ha entusiasmato. E invece altri film che hai visto, Gabriele, lì la situazione com'è lì? Allora, qui il festival procede, cioè nel senso che ci sono molte cose interessanti, come sempre è molto incentrato sull'animazione, e in questo senso ho visto il bellissimo Idiots and Angels di Bill Plimpton, un autarchico dell'animazione americano, di quelli che fanno tutto, cioè si fa un lungometraggio da solo, cioè ci mette una vita ma lo fa tutto da solo, disegnando tutto lui con qualche collaboratore, e sono prodotti fuori da ogni schema chiaramente. Ed è molto interessante, si chiama Idiots and Angels. E poi oggi è stato un bellissimo incontro sull'animazione indiana, cioè sappiamo che Bollywood e tutta l'industria del cinema indiano è la più fiorente al mondo, cioè fanno il doppio dei film che fanno gli americani a Hollywood ogni anno e incassano tantissimo, perché nonostante non li esportino, lì in India la gente va tantissimo al cinema, però poi sono prodotti alla fine inesportabili, per questo non li esportano, perché raccontano storie che a noi non ci colpiscono, sono colmi zeppi di canzoni che noi difficilmente sopportiamo. E soprattutto a me piacciono, niente, sono molto centrati sulla loro cultura, quindi a noi ci dicono poco. E questa animazione è particolarissima, è in linea con questo cinema, quindi piena di canzoni, colorata, e poi è molto, molto per bambini, e comprende sempre le loro divinità. Ci sono le avventure del piccolo Ganesh, ci stanno mi sembra un'altra serie di film di grande successo su Hanuman, che è un'altra divinità, ed è un modo di intendere i loro dei come eroi pop che veramente a noi è distante anni luce. Una divinità bambina che combina piccole marachelle con al polso un orologio, tra l'altro, una cosa stranissima. E la cosa particolare è che questa animazione è di una qualità pessima, cioè è un'animazione come quella che si prodotta dalla Rai, che va in onda alle 9 del mattino su Rai 3, una cosa veramente orrenda. Non so come mai incassi così tanto anche in Patria, dove comunque arriva la Pixar, arriva la DreamWorks. È un caso molto particolare, pare che molti cineasti americani stiano andando lì in India a produrre e a mettere mano. Aspetta, c'è un messaggio per Veronica, che dice a Federico che ha dimenticato il cellulare in macchina. Federico, Veronica ha dimenticato il cellulare in macchina, porca miseria. Questa radio è bellissima. Beh, questo è un messaggio di servizio, scusa. Queste cose sono stupende. Mi chiedono perché parli così piano. Perché sto in mezzo alla strada, urlare non mi va molto. Ah, ma stai fuori dal cinema, dal teatro? Esatto, sono uscito, stavo vedendo un'anteprima della serie di Guerre Stellari, cioè fanno una serie TV di cartoni animati in computer grafica tratta da Guerre Stellari. Si chiama Star Wars The Clone Wars. Andrà in onda dal 13 febbraio tutti i venerdì alle 20 su Cartoon Network, e praticamente racconta le storie con i protagonisti della nuova trilogia, che si inseriscono diciamo tra episodio 2 e episodio 3, cioè i penultimi due film. Quindi raccontano della lotta tra l'impero e tra la Repubblica e i separatisti che vogliono formare l'impero. È un prodotto incredibile, perché è un prodotto seriale per la TV, che non hanno mai la qualità dei film, quella di animazione dei film, eppure realizzato con una cura pazzesca. E appunto stavo finendo di vedere questi episodi, ce ne ho fatto vedere in anteprima, e devo ammettere, sono molto belli, veramente appassionati. Ti segnalo Push e What's Just Happened con Robert De Niro. Push è la storia di un gruppo di giovani americani dotati di poteri telecinetici ed altre abilità straordinarie, sono rifugiati ad Hong Kong per sfuggire al governo americano. Hai capito? Mentre What Just Happened è la storia di un produttore cinematografico in declino che cerca di far riprendere quota alla propria carriera, allo stesso tempo le solite storie. Insomma, la solita ballata proprio, eccetera. Va bene, altre cose che hai visto? Torna Star Trek, attenzione, Star Trek torna, Sì, torna Star Trek. Io ho visto anche delle anteprime, una 20 minuti di scene in anteprima. Com'è? E dalle scene in anteprima devo ammettere che non si è capito molto. Cioè, non ci hanno fatto vedere tutte le scene d'azione, che sono molte belle, c'è una gran bella azione. Però poi è venuto anche lui, il regista, J.J. Abrams, il creatore di Lost e di Cloverfield, che ci ha spiegato che il suo approccio sarà innovativo. Cioè, lui ha detto: non mi interessa per niente il parere dei fan e tutta la tradizione di Star Trek, non me ne frega niente, io faccio come voglio io. E questa cosa, da quello che abbiamo visto, non si è vista, perché appunto era una molte scena d'azione, e quella è la cosa diciamo più interessante. Ho capito. Vabbè, altri film che hai visto tu, Gabriele? Ho visto che sarà al cinema da oggi, e ve lo consiglio se siete amanti del genere, perché è bellissimo. Mar Nero è un film italiano della categoria degli indipendenti, quindi insomma di quel basso costo, ma fatto veramente bene. È, non lo nascondo, il classico film all'italiana, un drammatico intimista che racconta il rapporto tra un'anziana signora e questa ballante rumena che gli viene affidata, per cui da questo punto di vista non sembra molto interessante, eppure è molto bello, è fatto veramente bene, e visto che noi di questa categoria di film ne facciamo 100 l'anno, se dovessimo tenerne uno solo, secondo me quest'anno è questo, perché è veramente ben interpretato, ben girato, ha delle ottime idee, ha un punto di vista non usuale, insomma segue molto questa ragazza rumena senza però voler fare un classico discorso su l'immigrazione, come vengono trattati in Italia, semplicemente la segue in quanto è uno dei sono oggi gli strati più bassi della popolazione. Se una volta facevamo i film sul popolino, quello più indigente, oggi questo film vuole trattare alla stessa maniera gli immigrati, che sono il proletariato di oggi, diciamo. Certo. Beh, ma lo siamo diventati, cioè un po' tutti gli italiani ormai sono diventati proletari, sì, anzi sono tornati a diventare proletari, perché insomma la situazione non è molto molto rosea. Io qui a Bologna bevo solamente dalle fontanelle pubbliche, perché non posso permettermi altro. Fai bene. Quella bella acqua di Bologna, bella fresca, poi di fonte. È la migliore. Senti, dove mangi? Dai paninari? No, no, ma chi si scherza? Quelli costano. No, è tutti i buffet che offre l'organizzazione. Ah, te li fai tutti? Mi sono fatto un piano di buffet offerti intorno ai quali piazzo qualche film. Ma se c'è il buffet, vado al buffet, insomma. Ah, quindi ti porti anche via, anche via le bustate di roba? Sì, anche dai piatti degli altri. Prima chiedo se non finiscono. Se non lo finisce, allora poi lo prendo io. Ho capito. È la crisi. Vabbè. Senti, altri film? Niente, ci lasciamo così senza un vero perché? Sì, domani ci sarà bello interessante una giornata intera dedicata al Dico negli incontri con tutti gli esercenti. E domani ci saranno le domande serie. Cerchiamo di capire quanti. Io già ho subodorato che delle 60 sale che dovevano essere pronte per l'arrivo di Mostri contro Alieni a aprile non saranno pronte tutte e 60. Forse dovranno essere tipo una quarantina quelle pronte. E già, insomma, un bel fallimento. Poi ci sarà il numero uno della Warner, alla quale personalmente chiederò se per favore mette un proiettore 3D nel Warner Village di Roma, così almeno un cinema in 3D ce l'abbiamo a Roma. Ma perché non ce n'è neanche uno? No, Frascati e Ostia. Madonna. Questi sono i 3D più vicini. Mamma mia. Sì, infatti è una cosa francamente ridicola, sai, la città principale d'Italia. Aspetta, c'è un altro messaggio di servizio. Veronica è troppo rinco, con amore Federico. Bene, ma c'è qualche amore. Ma si amano, se si c'è amano. C'è un momento che mi ha stretto il cuore. Se si amano. Guarda, io ho il groppo qua. Cioè, queste chicche le regala solo Radio Rock. C'ho il groppo. Non ce l'ha Radio 2 queste chicche. No, se ne sogna. Ma qui siamo, giochiamo pesante. Oh. I sentimenti veri da gente vera. Certo. Ma si sa quando esce qualcosa di soffocare, esce in Italia? Sì, io l'altra volta avevo detto che non c'era un'uscita, però poi ho sentito del amici barra colleghi che mi hanno detto che dove sono andato a guardare io, cioè IMDb, amici, sbagliava. Amici in realtà, barra uscita. Colleghi, è come fare le parentesi, le virgolette con le dita. Amici barra colleghi, hai detto. Mannaggia. Amici barra colleghi. Ho sentito tutto nella vita, mancava solo questo, guarda. Ma perché sì, perché si lavora insieme, ma siamo anche amici. Lo so. Ci si dà una mano. Insomma, pare che comunque dovrebbe uscire. Adesso purtroppo non ricordo la data, però era vicino. Cioè si parla di, mi sembra, di aprile o maggio. Allora, telegrafico, mi chiedono Miyazaki quando esce? Ah, Miyazaki è uscito il poster italiano, il che vuol dire tutto e niente. Cioè, vuol dire che siamo vicini, però pure per quello non c'è una data. Però uscirà. Revolution... Siamo sicuri e dovrebbe mancare poco. Revolutionary Road. L'abbiamo parlato, quello di Caprio e Kate Winslet. Milk. Gabriele. Milk. Guarda, Milk a me non mi è piaciuto. Però alla fine non mi sento di sconsigliarlo, perché so che sono quei film che piacciono. È quel film con Sean Penn dove lui fa ci racconta la storia del primo uomo che in America ha ricoperto una carica politica essendo dichiaratamente gay. È uno di quei film da conquista dei diritti civili, dove alla fine lui ce la fa, ma battendosi contro il sistema. Per cui, insomma, è un film che dà molta soddisfazione, ma alla fine a me non è piaciuto, perché è girato con molta indulgenza, molta retorica, moltissima retorica, gli sguardi alla bandiera, insomma, però può piacere, perché poi Sean Penn è bravissimo, non si può dire nulla, insomma, ha il suo perché, ma io lo boccio personalmente. Consiglio anche no, niente, stavo leggendo una cosa, invece non è quello. Mi stai distraendo. Sì, no, mi stavo cercando di leggere cose e invece no, non era quello lì che volevo consigliare, ma insomma io ormai vado avanti. Posso dirti anche che uscirà dicembre 2009. No, dicembre non li riporta. Cosa stai dicendo? No, volevo fare quello che sta avanti pure io, capito? Quello che ne sa. Ma bisogna studiare tantissimo. Lo so. The Outlander esce a luglio. È una mia talpa tra quelle che mi sono più vicine, cioè mio fratello, che è un appassionato del genere, mi ha detto che vale la pena. Sì, Sì. Anche qui mi dicono che sia molto molto bello. Ma io sto avanti, sì, sì, non posso dire nulla. E invece uscirà anche 2012, che è l'anno in cui, secondo il calendario Maya, avrà luogo la fine del mondo. Quindi cosa succederà? Lo sapremo attraverso il film. Questa è una sparata forte. Vabbè, questa è forte. Vediamo. Mentre il 17 luglio esce Harry Potter Principe Mezzosangue. Sì, esatto, esatto. Uscirà, che è la prima parte dell'ultimo libro, perché l'ultimo libro è stato diviso in due film. Quindi ne vediamo uno adesso e uno l'anno prossimo. Un consiglio per un film da acquistare per la mia collezione tra le ultime uscite? Il petroliere. Sta secco. Boom. Vabbè. Grazie Vasquez, ci sentiamo, se tutto va bene, venerdì prossimo. Senz'altro. Va bene. Avrò tutte le indiscrezioni e le domande fatte agli esercenti sul 3D. Ah, perfetto. Vabbè, comunque tu spingi perché lo mettano anche a Roma, eh? Ah, certo, io personalmente mi spenderò, insomma, sai che poi ho una certa influenza su queste cose. Lo so, sei uno, insomma, che sa il fatto suo, è uno che conta. Insomma, quando dico una cosa io. Legge, insomma, certo. Insomma, voglio sbrodolarmi, ma insomma. Cioè, no, lo so. Comunque spingi, Vasquez. Spingerò senza ritegno. Allora, ti saluta Veronica del cellulare, e ci ringrazia. Che storia che ci ha regalato. Ma io, guarda, sono commosso. Guarda, Maura mi ha prestato il fazzoletto. Li abbracciamo tutti con calore, anche a te. Ciao Gabriele, divertiti. Ciao. A Bologna. Guarda che lì, nel quartiere universitario, sono dei babbetti, niente male. Ma guarda che io ho preso l'albergo qui apposta, seguendo i tuoi consigli. Ma lì si aggancia, capisci? Digli, guarda, io sono Gabriele. Aspetta un attimo, aspetta, che... A Bologna la cantina Bentivoglio. Cantina Bentivoglio, Vasquez. Si mangia dal vivo, si mangia e si beve bene. Però sono davanti alla cantina Bentivoglio, a via Mascara. Esatto. Bravo. Ecco, bravo. Lì si davanti. Musica dal vivo, si mangia e si beve bene, quindi. Sì, enoteca con cucina barra ristorante. Bravo. Esatto. Vai, dopo i film vai. Perfetto, davanti al cinema, perfetto. Bravo, così. Magari aggancia, dicevo prima, aggancia qualcuno. L'aggancio e sale, attraversiamo la strada e siamo nella cantina Bentivoglio. Perché i critici cinematografici sono solo maschi? c'è qualche signorina? No, ce ne sono. Le critiche in gonnella, ce ne sono. Sono garucce? Alcune sì, alcune meno. Come dire, non è che tipo le critiche sono tutte cessi o sono tutte belle, sono equamente distribuite. Bene. Rappresentano la popolazione. Va bene, arrivederci, ciao, a venerdì. A venerdì. Ciao. Anche io vi saluto, che la forza sia con voi, ci siamo tagli di farsa, grazie a tutte e a tutti, e ricordatevi sempre che è una pietra che rotola non raccoglie mai succo. Ci vediamo per chi verrà a trovarci questa sera allo Shango. A fare quattro salti, a bere un simpatico drink. Lascio tutto nelle mani di Maura Cenciarelli. A lunedì, perché domani non ci sono.